Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Destini incrociati oggi vi racconta una storia tutta italiana. Ripercorriamo insieme i luoghi del nostro stivale a ritmo di musica e per farlo partiamo proprio dal cuore più verace dell'italianità. Facciamo la nostra prima tappa nella meravigliosa città di Napoli. Colombo ebbe il Natale a Genova, ma Pasqua passò a Napoli e quindi è parte napoletano e parte europeo di padre. Il grande Antonio De Curtis, in arte Totò, ama scherzarci sopra. Perfino Cristoforo Colombo, a sentir lui, sarebbe nato a Napoli, una città affascinante proprio in virtù delle sue contraddizioni. Le piazze e i palazzi imponenti, ricordi intatti di un passato glorioso, convivono con l'intreccio di vicoli stretti e bui dei quartieri spagnoli. La religiosità, simboleggiata dalla grandiosa e teatrale devozione a San Gennaro, cammina mano nella mano con la superstizione, i cornetti e gli amuleti che campeggiano su qualunque bancarella della città, magari proprio accanto alle immagini sacre del patrono cittadino. Una città intrisa di meraviglie e di miserie, un perfetto punto di partenza per raccontarvi la storia di oggi, una storia fatta di vette e precipizi, di grandi successi e plateali sconfitte. Napoli, terra di molte lacrime e altrettanti sorrisi, è anche la città natale del nostro primo protagonista. Il suo nome è Enzo Gragnaniello. Enzo Gragnaniello. Beh, io sono innamorato di Napoli da una vista. Si può dire 300.000. Un amore viscerale, quello di Gragnaniello, per la città che lo ha visto nascere e crescere. E infatti è proprio in una di quelle minuscole viuzze, precisamente in Vico Cerriglio, il vicolo più stretto di tutta Napoli, che Enzo emette il primo vagito il 20 ottobre del 1954. Passa l'adolescenza sempre tra i vicoli, stavolta quelli angusti del quartiere Porto, dilettandosi fin da piccolo nei più svariati lavori. Fa il garzone di pasticceria, serve ai tavoli, prepara caffè nei bar, fa persino l'attrazione vivente di una bancarella che vende blue jeans. Di certo Enzo è un tipo che non resta con le mani in mano. D'altra parte, se nasci povero a Napoli, hai solo due strade: o impari l'arte di arrangiarti o diventi un artista con la A maiuscola. E lui da ragazzo propende decisamente per la prima ipotesi. Ma io non pensavo proprio che facevo cantante. Eppure Enzo, quasi per caso, da ragazzino, si ritrova con una chitarra in mano. Se fosse stato un pallone, probabilmente avrebbe cominciato a calciarlo e a farlo rimbalzare sui muri di quelle vie strettissime, così strette che a volte ti chiedi se riuscirai davvero a trovare una via d'uscita. E la chitarra, in quel contesto, rappresenta proprio questo, una via di fuga da una realtà molto difficile, una valvola di sfogo che passa rigorosamente attraverso la magia delle note musicali. Questa energia della musica ti chiama messa a te, perché è così razionale la cosa, che non, è chiaro che provo un fascino per questa sostanza, allora vieni attratto, vieni catturato automaticamente, non lo so, poi mi ritrovo quello che sono, però ho iniziato con una chitarra che sentivo così, mi piaceva suonare una chitarra, così. Però poi bello e buono è successo che provavo degli stimoli diversi, cominciava a fare una melodia, cominciava a scrivere delle cose, ma tutto così naif, senza scuola, senza niente, capito? È nato così. Enzo inizia per caso e la prima cosa che fa è trarre ispirazione dai cantanti famosi che sente ogni giorno alla radio. Ah vabbè, quando ero piccolo, la chitarra tu fai le cover, tambare un po' le canzoni, mi ricordo Celentano, poi Battisti, le cose di Battisti piacevano assai, a me Battisti piaceva proprio assai, non lo so perché, ma mi arriva una sensazione più... C'era qualcosa in più, ecco, con Battisti, che mi prendeva. E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. E sono proprio queste che la musica suscita nel giovane Enzo, che nel frattempo non sta fermo un secondo. Poi lavoravo da piccolo, sai, ho lavorato in un locale chiamato il River al porto, e ho lavorato, facevo il bar sopra e la sera lavoravo al night con gli americani e l'Endronos, capito? Accompagnavo gli americani al porto oppure ai quartieri spagnoli perché volevano qualche donna, un po' di queste cose qui, insomma, e sono cresciuto anche in questo locale con la musica di Otis Redding, grande Otis, tutte queste cose qua, tutta la musica black degli anni 60, anni 70, insomma. Enzo si riempie le orecchie con le canzoni dei grandi, sia italiani che stranieri, poi inizia a scimmiottarli strimpellando. Compone le prime canzoni su per giù a 18 anni. In esse racconta le storie provenienti dall'unico universo che conosce. Storie sentite in osteria da chi aveva fatto la guerra, storie di signori americani lontani da casa e alla ricerca di una consolazione per la notte, storie di emarginati, di chi ha passato la vita in galera e ora si nasconde dietro un bicchiere di vino e poi il resto della notte lo passa per strada. Tutte vicende che sente, che vede nella sua città e che spesso sono già state cantate dai grandi cantori della tradizione napoletana. Dall'altro lato poi ci sono le canzoni napoletane che mi piacevano così tanto, tipo Sergio Bruno e Murolo, erano questi cantanti che preferivo. Spesso le canzoni che scrive Enzo, ancor più di quelle dei suoi illustri predecessori, sono piene d'amore e di rabbia. Ma il suo vero tratto distintivo, ciò che non manca mai nei suoi pezzi e che li rende unici all'orecchio di chi ascolta, è la personalissima interpretazione che lui sa dare a quei sentimenti, condendo anche le storie più disperate di un senso seppur flebile di speranza. È importante vivere il disagio, tutto questo, perché ti forma, ti fa capire, ti scava dentro, ti fa sentire il dolore. Se il dolore per esempio è un vuoto, poi comunque c'è la possibilità, più profonda è, più lo puoi riempire di gioia, va, diciamo così. Il disagio, il male di vivere, sono funzionali al lavoro dell'artista che ha il compito di riempire di colori il buio del baratro esistenziale. O quantomeno l'artista ha il dovere civile di denunciarlo, questo disagio. Ed è proprio questo quello che intende fare Gragnaniello quando nel 1977 forma il gruppo Banchi Nuovi, nome legato a una delle realtà più dure e pressanti che Napoli abbia mai avuto, quella della disoccupazione. Banchi Nuovi, infatti, è il nome del comitato dei disoccupati organizzati di cui Enzo faceva parte. Giovane cantautore, ma anche giovane attivista, attento ai problemi della sua amata città, questioni di cui è necessario parlare se si vuole aspirare a una soluzione. Oppure, in alternativa, si può sempre provare a cantare. I Banchi Nuovi si muovono nell'ambito della riscoperta delle radici popolari della musica e della canzone napoletana e lo fanno con un occhio di riguardo alle tematiche sociali. Ma Enzo aspira a qualcosa di più della pura e semplice lotta civile, per quanto la consideri nobile e importante. La passione per la musica in lui ha ormai preso il sopravvento. Inizia quindi a bazzicare i locali, anche quelli in cui aveva lavorato qua e là per brevi periodi, alla ricerca dell'occasione giusta. Il cuore e il talento non gli mancano. E nemmeno la fortuna si fa aspettare troppo a lungo. All'inizio degli anni 80 ho incontrato un produttore che era lo stesso produttore di Pino Daniele. Mi ha sentito cantare, abbiamo inciso un disco, così ho iniziato la mia carriera. Semplice, rapido e indolore. I primi passi di Gragnaniello nel mondo della musica sembrerebbero incarnare il sogno di qualunque musicista alle prime armi. In realtà, di gavetta ne ha fatta, nei locali e in giro per le strade della sua Napoli. I testi delle sue canzoni, scritti rigorosamente in napoletano, descrivono con linguaggio semplice eppure poetico la realtà di tutti i giorni, fatta di gioie e dolori, di conquiste e sconfitte. Il primo album, omonimo, esce nel 1983 e ottiene un buon successo di critica e di pubblico, pur restando confinato nel ristretto ambito della canzone dialettale. Ma lui non si sente affatto confinato in un recinto ristretto, anzi, rivendica l'importanza assoluta della lingua con cui è cresciuto e che ha scelto come veicolo d'elezione per i messaggi contenuti nelle sue canzoni. Allora, secondo me i dialetti, non dico quelli del mondo, ma i dialetti perlomeno del nostro paese, che è l'Italia, devono capire che è una, come se fossero tanti organi di un corpo. se si perde solo un dialetto, è come se tu nel tuo corpo amputassimo un organo, non lo so quale, forse il fegato, mi sembra legato al fegato, sì, e al cuore. Il fegato perché ci prendiamo a collera. E il cuore perché ci dà l'emozione della vita. E ci dà la possibilità di curarlo, ecco, noi teniamo questa forza qua che non è da sottovalutare. Ed è sempre rigorosamente in lingua napoletana che nel 1985 scrive e pubblica il suo secondo album dal titolo Sulla Trinità degli Spagnoli, ispirato al nome della via dove vive tuttora, nel centro di Napoli. Questo lavoro, come il precedente, si impone all'attenzione della critica al punto da fargli meritare nel 1986 la targa Tenco come miglior musicista dialettale. Un premio prestigioso, un sigillo di qualità su una brillante carriera ancora tutta da scrivere. Enzo Gragnaniello è proiettato verso una brillante carriera musicale. Ma c'è un evento, anzi un incontro, che di lì a poco sconvolgerà i suoi piani, imprimendo loro una svolta inaspettata. Siamo ormai nella seconda metà degli anni Ottanta. Enzo Gragnaniello è stato appena insignito della prestigiosa targa Tenco, intitolata al compianto musicista, le cui parole avevano saputo scaldare il cuore di molti. Enzo gira ancora i locali, i club e i night dove si tira tardi e si fa musica. Stavolta però non lo fa necessariamente per lavoro, ma può permettersi di farlo per diletto. Alcuni amici una sera lo portano in uno di questi club dell'entroterra napoletano a fare baldoria, con la scusa, perché no, di festeggiare il premio appena ricevuto. In quel minuscolo locale, su un piccolo palcoscenico sgangherato, c'è una donna con i capelli nerissimi, gli occhi profondi e tristi. Il suo sguardo cambia, però, non appena prende in mano un microfono. Nella sala all'improvviso si sprigiona l'energia incontenibile della sua voce, che riempie e fa vibrare ogni sospesa particella di ossigeno. Enzo Gragnaniello è letteralmente folgorato dalla sua apparizione. Dopo averla ascoltata da vicino, perché l'avevo sentita dopo tanti anni, non appariva più, e mi portarono a sentirla in un concerto degli amici. Io l'ho sentita cantare e mi sono detto, ma... Ti sei emozionato? Sì, molto, ho detto, ma è impossibile, un artista di questa livello, forza, cioè, non esiste più, cioè, non la sento, non... Enzo nota immediatamente la disparità qualitativa tra la voce di quella strepitosa cantante e le scarsissime abilità tecniche dei musicisti che la stanno accompagnando. È evidente che quella donna non sia affatto una dilettante, ma che invece, per qualche inspiegabile motivo, si sia ritrovata a calcare un palcoscenico di quart'ordine, circondata da suonatori improvvisati. E a guardarla meglio, in effetti, Gragnaniello riconosce quella donna dall'aria malinconica e spenta, capace di illuminarsi all'improvviso non appena la sua bocca si dischiude ed emette una nota. Non è una cantante da bar di provincia, ma è una grandiosa e sfortunata professionista. Il suo nome è Mia Martini. Mia Martini. Enzo non riesce davvero a capacitarsi di come un artista del genere si trovi in quel luogo dimenticato da Dio, pieno di ubriaconi e di fumo di sigaretta. Eppure, nonostante l'ambiente sconfortante, quella donna sa illuminare la scena con la sola potenza della sua voce. Chiude gli occhi, afferra il microfono con entrambe le mani e tira fuori tutta la rabbia, l'amore, la disperazione, la gioia che sono in lei. Il pubblico, per quanto sia sparuto e in buona parte disinteressato alla sua performance, non può fare a meno di restare a bocca aperta. Lei era molto rilassata, stava sempre bene. Quello era il suo mondo, la sua casa. Il palcoscenico è il suo ambiente naturale. Non importa che sia quello di un infimo locale della provincia napoletana o quello lindo e luccicante di un enorme studio televisivo. Già. Perché a Mia, prima di finire a cantare davanti a quel pubblico di ubriachi e tiratardi, è capitato di esibirsi in prima serata, in diretta sulla rete nazionale. È apparsa sui giornali, ha vinto concorsi, manifestazioni, dischi d'oro, ha venduto centinaia di migliaia di copie. Poi, un giorno, qualcosa ha cominciato a incrinarsi. effettivamente non si possono raggiungere dei grandi ideali, non si può raggiungere la maturità senza soffrire, quindi è solo attraverso le asperità che si vive profondamente la nostra vita. Mia, a un certo punto della sua carriera, dopo avere conosciuto le gioie e le lusinghe del successo, è stata rigettata e infangata proprio dal suo stesso mondo, quello della musica, che l'aveva vista nascere e crescere quando ancora era soltanto una ragazza spaurita, piena di talento e di insicurezze. Eppure lei non si è data per vinta. Tagliata fuori dal mondo della discografia che conta, piuttosto che smettere di cantare, Mia accetta di esibirsi nelle bettole. Indossa un abito elegante, si trucca a dovere e sale su quel minuscolo palco scricchiolante. E poi, per rendere tutto un attimino più facile, ci vuole molta ironia. Ironia o ironia della sorte, che differenza fa? Mia va avanti per la sua strada, incurante delle maldicenze sul suo conto. Quella sera non sa che tra il pubblico, solitamente distante e distratto, c'è un uomo che non può fare a meno di indignarsi per un tale spreco di talento. Enzo Gragnaniello capisce che è arrivato il momento di prestare le sue parole e la sua voce a qualcuno che di voce, in qualche modo, sembra di non averne più. E così, la stessa la sera, quando sono tornato a casa, ho scritto Donna. È la prima volta che Enzo scrive un testo in italiano e non nel suo adorato idioma napoletano. Non pensava che lo avrebbe mai fatto, non si era nemmeno mai posto il problema. È stata l'esibizione di Mia a innescare qualcosa dentro di lui. Una nuova stagione musicale sta iniziando. Mia ed Enzo sono pronti ad affrontarla, insieme. Destini incrociati. A Destini incrociati è il 1986. Siamo a Napoli, sullo sgangherato palcoscenico di provincia, dove si esibisce Mia Martini, un po' per passione e un po' per sopperire alle notevoli difficoltà economiche che l'hanno travolta. Dopo anni di successi, infatti, il mondo della discografia l'ha tagliata completamente fuori. Tra il pubblico che assiste alla sua esibizione quella sera c'è Enzo Gragnaniello, raffinato cantore dei sentimenti napoletani, che resta folgorato da quella voce così intensa e meravigliosa. Sarà lui a incoraggiare il rientro di Mia nel giro dei musicisti che contano. Ma facciamo un passo indietro nel tempo e cerchiamo di ripercorrere la storia di questa donna così forte e sfortunata. E facciamo anche un passo nello spazio, spostandoci in Calabria, meta di una nuova tappa del nostro viaggio. Io sono calabrese. Di dove? Di Bagnara Calabria. Ah, bellissimo paese, il mare viola da quelle parti. Sì. No? Ecco. E dicono che Bagnara sia una città dove lavorano le donne, è vero? Sì, c'è è vero. C'è una tradizione, se non sbaglio, no? Cioè, non so quanto veritiera, ma comunque che le donne di Bagnara sono un po' quei capofamiglia. Sì, infatti le donne lavorano moltissimo, portano delle cose in testa. Sì. So. Una volta ho visto perfino delle donne portare dei binari di treno in testa. Ecco. Oppure fanno le ceste, sì. I mariti invece bevono, stanno al bar. Da questa intervista realizzata da Enzo Tortora nel 1975 emergono già tutta la determinazione e il carattere della futura cantante. Domenica Bertè, questo è il suo vero nome, nasce a Bagnara Calabra il 2 settembre del 1947. L'ambiente è quello prettamente matriarcale, tipico di certe zone del sud. Sono le donne ad avere in mano le redini della situazione. Il padre di Mimì, un austero professore di greco e latino, si disinteressa della vita e delle aspirazioni delle figlie, mentre la madre, energica e premurosa, si divide tra il lavoro come maestra elementare e l'intricato ménage familiare. Per Mimì, l'incontro con la musica avviene prestissimo. Comincia con le piccole feste di paese e i concorsi dilettantistici per voci nuove. Ma la provincia calabra non è certo il posto ideale per iniziare una carriera musicale. Dunque, devi sapere che mia madre insegna alle scuole elementari. Si è fatta dare un permesso per accompagnarmi a Milano e mi ha detto: arriviamo alle 7 del mattino a Milano, se a mezzogiorno non hai contratto in tasca, di cantare non se ne parla più. Il nostro viaggio al seguito di Mimì fa una nuova esaltante tappa. La destinazione stavolta non è più il caloroso Sud Italia, ma è Milano, città dalle mille opportunità. Dopo tanti no e altrettante porte chiuse in faccia, finalmente una piccola etichetta crede alle enormi potenzialità della ragazzina. Il primo disco arriva nel 63, un 45 giri che contiene due cover dal titolo I miei baci non puoi scordare e Lontani dal resto del mondo. Sono canzonette d'amore ballabili, nel perfetto stile radiofonico, pulito e divertente, tipico degli anni 60, e ottengono un discreto successo. Ma quell'immagine così leggera e scanzonata da ragazza yeah è inadatta alla giovane Mimì, che si ispira piuttosto alla vocalità di Etta James e Aretha Franklin. Il successo effimero dei primi singoli si dissolve presto, e nel corso degli anni 60 Mimì perde a poco la popolarità che aveva conquistato. Come se non bastasse, nel 1969 sconta 4 mesi di carcere perché si è fatta beccare con uno spinello in tasca. Bisogna ricominciare tutto da capo. Roma stavolta sarà il teatro della rinascita. Trasferitasi a vivere nella capitale con la madre e la sorella Loredana, Mimì riesce a inserirsi nel giro del Piper, il celebre locale che tanta fortuna ha portato qualche anno prima a un'altra cantante, la biondissima Patti Pravo. L'incontro col proprietario Alberigo Crocetta si rivela fondamentale. È lui a reintrodurla finalmente nel giro giusto e il rientro si compie in grande stile con due canzoni che fanno molto discutere. La prima è la dissacrante Padre davvero, dai toni e dagli argomenti forti. L'altra è Amore, amore un corno, scritta da un giovanissimo autore romano, Claudio Baglioni, che con lei partecipa al cantagiro di quell'anno. Che non mi dai, mentre io spero ancora che tu cambi. Io ho perso il gusto di questa vita e penso spesso di farla finita. E penso che questa è l'ultima volta che da domani. Alberigo Crocetta, discografico e fondatore del Piper, fa rinascere per la seconda volta la carriera di Mimì. Anzi, a dire il vero, non si chiama più così. Mimì per te non funzionava troppo. E allora ho incontrato questo signore, che poi è diventato il mio produttore, che aveva già manie internazionali. E allora mi ha detto, andiamo all'estero, però bisogna trovare un nome italiano che è facile da pronunciare e che è famoso, conosciuto. Guarda, all'estero dei nomi italiani famosi ce ne sono 3: gli spaghetti, il Martini e la pizza. Scegli un po', e io ho scelto Martini. Nuovo produttore, nuovo nome, nuovo stile, nuova casa discografica. Nel 1972 Mia Martini lascia la RCA per seguire Alberigo Crocetta alla Ricordi di Milano, dove Bruno Lauzi e Dario Baldan Bembo scrivono per lei la struggente Piccolo Uomo, con cui Mia scala le classifiche e vince il Festival Bar. Un successo strepitoso, ma il meglio deve ancora arrivare. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù male che ti vada avrai, tutta a me se ti andrà per una notte. La canzone che state ascoltando è Minuetto, capolavoro che vale a Mia il disco d'oro e la seconda consacrazione consecutiva al Festival Bar. Ora la sua carriera assestata su una nuova cifra stilistica, più personale e autobiografica, procede a gonfie vele. Nel 75 la Martini riceve il premio della critica europea di Palma de Mallorca e inizia una collaborazione artistica con Charles Aznavour, con cui tiene una serie di concerti che la portano in giro per l'Europa fino al prestigioso palco dell'Olimpia di Parigi, tempio della musica internazionale. Da Bagnara Calabra a Parigi è decisamente un bel salto. Il 1977 sancisce l'incontro con Ivano Fossati, col quale nasce un sodalizio artistico e sentimentale destinato a protrarsi per diversi anni. Che cosa ha significato il tuo incontro con Ivano Fossati? Amore, a pezzi, ma stavo ancora domandando da 20 anni. Cosa ha significato? È una specie, è presente la freccia del nord che si incontra con la freccia del sud, scontro frontale. Ed è proprio con un pezzo del cantautore genovese che Mia Martini si presenta nel 1982 al Festival di Sanremo. Già, Sanremo. Dopo la Calabria, Milano, Roma e perfino Parigi, ecco un'altra tappa del tortuoso viaggio musicale e umano di Mia. Con il brano dal titolo E non finisce mica il cielo, non raggiunge il podio dei vincitori, spesso destinato a canzoni più orecchiabili e meno complesse, anche se qualitativamente più deludenti. A sorpresa, però, Mia viene premiata comunque. I giornalisti la insigniscono del prestigioso premio della critica, istituito quell'anno appositamente per lei. Un trionfo, senza dubbio, ma non è tutto oro quello che luccica. Da tempo sul suo conto circolano voci molto negative, in bilico fra la crudeltà e la superstizione. La pressione si fa così forte e l'ostracismo così manifesto che nel 1983, appena un anno dopo il trionfo della critica sanremese, Mia decide di ritirarsi dalle scene. A parlarci della situazione è la sorella, Loredana Bertè. Perché stava così male, Mimì? Perché c'è questa moda che quando ce n'è una troppo brava, l'unico modo per buttarla fuori è di che porta iella. Quando nel 1986 Enzo Gragnaniello la scopre su un minuscolo palco di provincia, Mia è ormai assente dalla ribalta mediatica da qualche anno. Enzo se ne innamora, artisticamente parlando, e decide di riportarla alla vita e al successo che merita. Anche se manchi tu, e sarà dolore. Destini incrociati. Da questa terrazza si domina praticamente tutta Napoli, siamo nel suo cuore, nel cuore di Napoli, dove abita appunto Enzo Gragnaniello, musicista, cantante, per oltre 10 anni ha lavorato con Mia Martini come autore, ma soprattutto è diventato grande amico di Mia. Enzo Gragnaniello ha scovato Mia Martini in uno dei locali del napoletano che frequentava fin da quando, appena ragazzo, strimpellava con la sua chitarra in cerca di successo. Si è innamorato della sua voce possente, di quel timbro che nella seconda metà degli anni Ottanta è diventato ancora più roco e vibrante per via di un'operazione alle corde vocali. Ma non è stata la chirurgia a tenerla lontana dalle scene e a farle scordare i fasti della notorietà. Sono state le maldicenze, le cattiverie, le meschinità che troppo spesso avvelenano il mondo dello spettacolo. Di certo il talento di Mimì è di quelli che spaventano, che intimoriscono. E il suo carattere, l'indole forte di una donna abituata fin da giovanissima a saper badare a se stessa, non sono sempre facili da gestire. Mimì era una persona, o la amavi proprio, è meglio non stargli vicino, perché lei era una molto trasparente e chiara nelle cose, no? Era una che... O gli piacevi o no? Sì, ma se c'era qualcosa, lei te lo diceva subito. Per Enzo è stato amore a prima vista. Dopo la folgorazione in quel locale di Napoli, corre a casa e scrive Donna, la sua prima canzone composta interamente in lingua italiana. Donne piccole come sei, c'è qualcuno ne vuole pelle. Donna solo per qualche giorno, volti un testo duro che non ha paura di dire cose sconvenienti, parole che dipingono Mimì esattamente per quella che è, una donna combattiva, capace ogni volta di rialzarsi dalle macerie della propria carriera e di ricominciare. Ed è proprio questo quello che fa. Trainata dall'energia di Enzo Gragnaniello, aiutata prima dalle sue lusinghe professionali e poi dalla bella amicizia che li lega, Mia Martini è di nuovo pronta per il grande pubblico. Nel 1989 sale nuovamente sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e conquista il cuore di tutti con la poesia urlata e sofferta di Almeno tu nell'universo. Come era accaduto 7 anni prima, non vince, ma conquista di nuovo l'ambito premio della critica. Un rientro in grande stile, non c'è che dire. Enzo Gragnaniello, intanto, scrive canzoni per Mia, una dopo l'altra. Ha trovato l'interprete perfetta, e grazie a lei ha scoperto che il suo talento non si limita alla canzone napoletana. Anche Mia scopre qualcosa grazie a Enzo, un amore viscerale per la città di Napoli, per i suoi abitanti e per la sua lingua. Ma a Napoli si trasformava, te lo assicuro, e non era vero che era triste. Era triste, cioè quando cantava si leggeva la sua malinconia, ma non, lei dentro aveva sempre tanta voglia di vivere. Lei faceva un sacco di battute, mi faceva ridere. Battute in napoletano va a finire pure qualche volta. Sì, lei spesso faceva anche le battute in napoletano. Enzo ne approfitta e sceglie di tornare al suo primo amore, quello per il dialetto napoletano. Scrive una canzone pensata apposta per lei e per uno dei grandi miti della sua giovinezza, Roberto Murolo. Beh, io quando l'ho scritta, la verità, ho pensato a lei, a Roberto Murolo, nel senso che in quel periodo Roberto stava facendo questo disco, io stavo collaborando con Mimì per altre cose, e ho proposto di cantare questa canzone insieme, non da solo. Lei rappresentava la tempesta e lui, Roberto, era il mare, diciamo, la pietra di tuffo, no? All'inizio degli anni 90, Cummè rilancia la canzone napoletana moderna e dona sempre più visibilità sia a Gragnaniello che alla Martini. Nell'edizione sanremese del 1990, Mia Martini si aggiudica per la terza volta il premio della critica per il brano La nevicata del 56, scritto per lei da Franco Califano. In quello stesso anno è impegnata in un tour che tocca svariate città italiane, nei cui teatri si esibisce spaziando tra il jazz e la canzone d'autore, e rivisitando celebri brani della tradizione italiana, da Battisti a Pino Daniele, in chiave sperimentale. Un progetto sentito e ambizioso, ma in questa occasione, ancora una volta, Mia incontra svariate difficoltà. La Fonit Cetra, casa discografica con cui Mia ha recentemente firmato un contratto, boicotta l'uscita del disco live che raccoglie le esibizioni della Martini durante il tour, scegliendo deliberatamente di stamparne solo 20.000 copie. Un atteggiamento inspiegabile, forse riconducibile al clima di astio e diffidenza che ha circondato la Martini dagli anni 70 in poi. Tutti sono in questo gioco frenetico e furioso e ormai i giochi sono scoperti, cioè si aspetta soltanto di veder crollare gli avversari come birilli. Se uno non casca da solo bisogna che qualcuno pensi a dargli una spinta, cioè ormai il gioco è proprio sanguinario. Questo è quello che Mia afferma in un'intervista del Dietro le Quinte dell'edizione di Sanremo del 1992, alla quale partecipa con il brano Gli uomini non cambiano. Data per super favorita, resta invece a bocca asciutta. Anche quell'anno la vittoria va a qualcun altro e così anche il premio della critica. L'anno seguente, sempre sul palco di Sanremo, duetta con la sorella Loredana. La critica resta sbigottita più che affascinata, ma a Mia non era mai importato di quello che pensavano gli altri. Ti emozioni spesso tu? Eh? Ti emozioni spesso? Io mi emoziono, ultimamente sì, mi sta capitando dove frequento, cosa dice il dottore, sarà preoccupante. Anche il carattere più forte, l'indole più combattiva del mondo a lungo andare possono fiaccarsi. Può darsi che negli ultimi anni Mia avvertisse il peso delle sue insicurezze e delle fragilità che aveva mascherato con coraggio per decenni. Stanca di lottare contro i molini a vento, stanca di mettere a tacere con la sua voce splendida e possente tutte le maledicenze che si rincorrono da anni sul suo conto, Mia percorre un'altra tappa del suo viaggio. Affitta un piccolo appartamento in una villetta a due piani, in un dimesso paesino della provincia di Varese, Cardano al Campo, 15.000 anime nella quiete del Varesotto per riprendere fiato dopo i bagni di folla sanremesi e gli anni passati a zonzo per le grandi città. Una tappa purtroppo che si rivela anche l'ultima. Emozione grandissima per la morte di Mia Martini, l'hanno trovata nella sua casa in provincia di Varese. Si trova a pochi chilometri da Varese, Cardano al Campo, il piccolo borgo dove Mia Martini si era trasferita dalla sua abitazione nei pressi di Roma poco più di un mese fa. I vicini di casa e gli abitanti la conoscevano appena, ma hanno subito legato con lei, tant'è che in molti non hanno esitato ad accompagnare con un lungo, caloroso applauso la sua uscita di scena. Un malore o l'esplicita volontà di liberarsi da un giogo diventato ormai pesantissimo. Siamo sicuri che Mia sarebbe riuscita a frantumare in mille pezzi i suoi fantasmi come centinaia di bicchieri di cristallo, se solo l'avessero lasciata cantare in pace. Lei era un artista senza filtri, usava come mezzo la canzone, ma le interessava solo buttare fuori quello che provava dentro, perché era un contenitore enorme, cioè, e la canzone gli dava la possibilità di esprimere, ma non perché lei voleva far vedere agli altri il suo dolore, non è la vibrazione del canto che la trasformava. Da sola gli uomini Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.